Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. E sono successe molte cose durante la scorsa lettura. Pierre, adirato con la moglie, è partito per Pietroburgo. Andrei, ferito e dato per disperso, riappare a Lisiegori proprio nel momento in cui la moglie Lisa, partorisce e muore dando alla luce un bambino. Rostov intanto accudisce l'amico Dolokhov, ferito in duello da Pierre, che, una volta guarito, comincia a frequentare la casa di Nikolai e si innamora di Sonia. Questa però respinge la sua proposta di matrimonio e in un colloquio davvero bellissimo dichiara il suo amore a Nikolai, il quale non le nasconde che, pur amandola, non è in grado di fare promesse per il futuro. Per vendicarsi, Dolokhov sfida al gioco Nikolai e gli vince la bellezza di 43.000 rubli. Denisov intanto chiede la mano di Natasha e anche lui viene rifiutato. Alla fine di novembre Nikolai deve raggiungere il suo reggimento in Polonia. E adesso noi cominciamo la nostra 13ª puntata dal momento in cui Pierre parte per Pietroburgo. Alla posta di Torzhok non c'erano cavalli o il maestro di posta non ne volle dare. Pierre dovette aspettare. Senza spogliarsi, si coricò su un divano di cuoio davanti a una tavola rotonda, appoggiò su questa tavola i suoi grossi piedi calzati di stivali da inverno e si mise a pensare. Tutto gli si presentava confuso, insensato e disgustoso, ma in questo stesso disgusto per tutto ciò che lo circondava, Pierre trovava una specie di acre piacere. «Oso pregare Vostra Eccellenza di stringersi un pochettino per questo signore», disse il maestro di posta, entrando nella stanza e conducendosi dietro un altro viaggiatore rimasto là per mancanza di cavalli. Il viaggiatore era un vecchietto tarchiato, ossuto, giallo e grinzoso, con le sopracciglia bianche spioventi sugli occhi luminosi, d'un indeciso color giallognolo. Pierre tolse i piedi di sulla tavola, si alzò e andò a stendersi sul letto preparato per lui, gettando ogni tanto un'occhiata al nuovo venuto. Il viaggiatore sedette sul divano, appoggiando alla spalliera la testa grossa e larga alle tempie, coi capelli tagliati corti, e gettò un'occhiata a Bezukhov. L'espressione severa, intelligente e penetrante di quello sguardo colpì Pierre. Il servo del viaggiatore, un vecchietto tutto coperto di rughe, giallo anche lui, senza baffi né barba, cercò nella cassetta delle provviste, preparò la tavola per il tè e portò il samovar che bolliva. Quando tutto fu pronto, il viaggiatore aprì gli occhi, si avvicinò alla tavola e, versatosi un bicchiere di tè, ne versò un altro per il vecchietto glabro e glielo diede. Pierre cominciava a essere inquieto e a sentire la necessità, quasi l'inevitabilità, di attaccare discorso con quel viaggiatore. «Ho il piacere di parlare col conte Bezukhov, se non sbaglio», disse il viaggiatore lentamente e ad alta voce. «Ho sentito parlare di voi», seguitò, «e della sventura che vi ha colpito, signor mio». Pierre arrossì e, buttando giù in fretta le gambe dal letto, si chinò verso il vecchio con un sorriso affettato e timido. «Voi siete infelice, signor mio», proseguì l'altro. «Voi siete giovane, io vecchio. Vorrei aiutarvi, nella misura delle mie forze. Ma se per qualche motivo vi dispiace parlare con me», disse il vecchio, «ditemelo pure, signor mio». E a un tratto sorrise di un inaspettato sorriso paterno. «Oh no, assolutamente no, al contrario. Sono molto contento di fare conoscenza con voi», disse Pierre. E guardando le mani del suo nuovo conoscente, osservò l'anello. Ci vide sopra il teschio, simbolo massonico. «Permettetemi di domandarvi», disse, «se siete massone». «Sì. Appartengo alla fratellanza dei liberi muratori», disse il viaggiatore, guardando negli occhi di Pierre con sempre maggiore intensità. «E per conto mio e in nome loro vi stendo una mano fraterna». «Io non oserei mai dire di conoscere la verità», disse il massone, sempre più sorprendendo Pierre con la precisione e la fermezza della sua parola. «Nessuno può giungere da solo alla verità. Soltanto mettendo pietra su pietra, con la cooperazione di tutti, per milioni di generazioni, dal progenitore Adamo fino ai nostri giorni, si eleva quel tempio che deve essere degna abitazione del sommo Dio», disse il massone, e chiuse gli occhi. «Io devo dirvi che non credo in Dio», disse Pierre con rimpianto e con sforzo, sentendo la necessità di dire tutta la verità. «Sì, voi non lo conoscete, signor mio», disse il massone. «Non potete conoscerlo. Voi non lo conoscete e perciò siete infelice». «Sì, sì, sono infelice», confermò Pierre. «Ma che devo fare? Voi non lo conoscete, ma egli è qui. Egli è in me. Egli è nelle mie parole. Egli è in te e anche nelle parole sacrileghe che hai pronunziate or ora», disse il massone con voce severa e tremante. Poi tacque e sospirò, cercando visibilmente di calmarsi. «Egli è, ma capirlo è difficile», riprese il massone guardando non il viso di Pierre, ma davanti a sé. «Noi per secoli, dal progenitore Adamo fino ai nostri giorni, abbiamo lavorato per questa conoscenza e siamo ancora infinitamente lontani dal raggiungimento del nostro scopo, ma nella nostra incomprensione di lui vediamo soltanto la nostra debolezza e la sua grandezza». Pierre, col cuore sospeso, con gli occhi sfavillanti, guardava in viso il massone, lo ascoltava senza interromperlo, senza interrogarlo, e con tutta l'anima credeva a ciò che gli diceva quell'estraneo. Con tutta l'anima egli desiderava di credere, e credeva, e provava un lieto senso di tranquillità, di rinnovamento, di ritorno alla vita. «Non lo si può comprendere con l'intelletto, lo si comprende con la vita», disse il massone. «Non capisco», disse Pierre, sentendo con paura sorgere in sé il dubbio. Temeva l'oscurità e la debolezza degli argomenti del suo interlocutore, temeva di non potergli credere. «Non capisco», disse, «perché l'intelletto umano non possa giungere a quella conoscenza della quale parlate». Il massone sorrise del suo mite, paterno sorriso. «La suprema saggezza e la verità sono come una linfa purissima che vogliamo accogliere in noi», disse. «Posso io ricevere questa pura linfa in un recipiente impuro e giudicare della sua purezza? Soltanto con la mia purificazione interiore posso portare a una certa purezza la linfa accolta in me». «Sì, sì, è così», disse Pierre con gioia. «Guarda con gli occhi dello spirito la tua personalità interiore e domanda a te stesso se sei contento di te. Che cosa hai raggiunto, guidandoti con la sola intelligenza? Che cosa sei? Voi siete giovane, ricco, intelligente, bene educato, signor mio. Che cosa avete fatto di tutti questi beni che vi erano stati dati? Siete contento di voi e della vostra vita?» «No, io odio la mia vita», proferì Pierre, corrugando le sopracciglia. «Tu la odi? Allora cambiala, purificati, e a misura che ti sarai purificato, conoscerai la sapienza. Guardate la vostra vita, signor mio. Come l'avete passata? In orge selvagge e nella depravazione. Ricevendo tutto dalla società e non dandole nulla, avete ricevuto la ricchezza. E come l'avete impiegata? Che cosa avete fatto per il nostro prossimo? Avete mai pensato alle decine di migliaia di vostri schiavi? Li avete aiutati fisicamente e moralmente? No. Voi avete profittato delle loro fatiche per condurre una vita sregolata. Ecco che cosa avete fatto. Avete scelto un posto di lavoro dove poteste rendervi utile al vostro prossimo? No. Avete passato la vita nell'ozio. Poi vi siete ammogliato, signor mio. Avete preso su di voi la responsabilità di guidare una giovane donna. E che cosa avete fatto? Non l'avete aiutata, signor mio, a trovare la via della verità, ma l'avete precipitata nell'abisso della menzogna e della sventura. Un uomo va offeso e voi l'avete ucciso. E dite che non conoscete Dio e che odiate la vostra vita. Non c'è da meravigliarsi, signor mio. E dove andate adesso?» Io vado a Pietroburgo», rispose Pierre con voce fanciullesca e indecisa. «Voi andate a Pietroburgo. Bene, date questo al conte Villarski». E prese il portafogli e su di un gran foglio di carta piegato in quattro scrisse alcune parole. «Permettete che vi dia un consiglio. Giunto nella capitale, consacrate il primo tempo alla solitudine, all'esame di voi stesso e non tornate sull'antica via della vostra vita. Dopodiché vi auguro un felice viaggio, signor mio», disse accorgendosi che il domestico era entrato nella stanza. «E buona riuscita». Il viaggiatore era Osip Alexeyevich Bazieyev, come seppe Pierre dal registro del maestro di posta. Questi era uno dei più noti massoni fin dal tempo di Novikov. E così, giunto a Pietroburgo, Pierre non avverte nessuno del suo arrivo, ma una settimana dopo il conte polacco Villarski gli si presenta annunciando di avere per lui una proposta. La proposta è quella di introdurlo nell'ordine massonico e Pierre accetta. Dunque Villarski lo conduce alla sede della loggia, lo benda e lo sottopone alla cerimonia che lo introduce alla fratellanza. Il giorno seguente questa cerimonia, Pierre riceve la visita del principe Vassili, che è suo suocero, il quale con fare mondano e disinvolto cerca di convincerlo dell'innocenza di Hélène e della necessità immediata di una rappacificazione. Ma Pierre lo mette alla porta e dopo pochi giorni lascia Pietroburgo per i suoi possedimenti della Russia meridionale. Ma la storia del duello si era intanto diffusa e aveva nuociuto alla reputazione di Pierre, che ora tutti considerano colpevole di gelosia ingiusta, mentre Hélène, che arriva anch'essa a Pietroburgo, viene accolta da tutti con cordialità ed estremo rispetto. Alla fine del 1806, Quando già si erano avuti tutti i tristi particolari sull'annientamento dell'esercito prussiano per opera di Napoleone sotto Jena e Auerstedt e sulla resa di gran parte delle fortezze prussiane, quando le nostre truppe erano già entrate in Prussia ed era cominciata la nostra seconda guerra contro Napoleone, Anna Pavlovna aveva indetto una serata. La persona che quella sera Anna Pavlovna offriva ai suoi invitati come novità era Boris Drubetskoy, arrivato proprio allora come corriere dell'esercito prussiano. Boris, durante quell'epoca del suo servizio, grazie alle cure di Anna Mikhailovna, ai suoi gusti personali e alle qualità del suo carattere riservato, era riuscito a mettersi nella posizione più vantaggiosa. Era aiutante di campo di un personaggio assai importante. Aveva avuto una missione assai importante in Prussia e ne era tornato proprio allora come corriere. Egli non era ricco, ma spendeva tutto il suo denaro per essere vestito meglio degli altri. Si privava di molti piaceri piuttosto che andare in una brutta carrozza e farsi vedere con una vecchia uniforme per le strade di Pietroburgo. Faceva amicizia e ricercava la conoscenza solo con persone che erano più in su di lui e che perciò gli potevano essere utili. Amava Pietroburgo e disprezzava Mosca. Il ricordo di casa Rostov e del suo amore fanciullesco per Natascia gli era sgradito e fin da quando era partito per raggiungere l'esercito non era più stato dai Rostov. Adesso, nel salotto di Anna Pavlovna, dove pensava che entrare fosse un gran passo innanzi nella carriera, aveva subito capito la sua parte e lasciò che Anna Pavlovna profittasse dell'interesse che egli offriva, osservando attentamente ogni persona e valutando i vantaggi e la possibilità di farsi amico ciascuno. Sedette al posto che gli fu indicato accanto alla bella Hélène e stette ad ascoltare la conversazione generale, aspettando il suo turno e gettando più di un'occhiata alla sua vicina, la bella Hélène, che con un sorriso aveva parecchie volte incrociato il suo sguardo. Con molta naturalezza, parlando della posizione della Prussia, Anna Pavlovna pregò Boris di raccontare il suo viaggio a Glogau e lo stato nel quale aveva trovato le truppe prussiane. Boris, senza affrettarsi, in un francese puro e corretto, raccontò moltissimi particolari interessanti sull'esercito, sulla corte, e in tutto il tempo del suo racconto evitò accuratamente di esprimere la sua opinione personale sui fatti che riportava. Per qualche tempo incatenò l'attenzione generale e Anna Pavlovna sentiva che la novità da lei offerta era accolta con piacere da tutti gli invitati. Più di tutti fu Hélène che si mostrò attenta al racconto di Boris. Più di una volta ella lo interrogò su qualche circostanza del suo viaggio e pareva interessarsi molto della situazione dell'esercito prussiano. Appena egli ebbe finito, ella si rivolse a lui col suo abituale sorriso. «Il faut absolument que vous veniez me voir», disse, con l'aria che, per certe considerazioni che egli non poteva conoscere, ciò fosse strettamente necessario. «Martedì, tra le 8 e le 9, mi farete un grande piacere». Boris promise di aderire al suo desiderio e voleva mettersi a parlare con lei quando Anna Pavlovna lo chiamò. «Conoscete suo marito?» disse Anna Pavlovna, chiudendo gli occhi e mostrando Hélène con un gesto malinconico. «Ah, è una donna così infelice e così deliziosa. Non parlate di lui in sua presenza, vi prego, non ne parlate. Le è troppo penoso». Entrando il martedì sera nel sontuoso salone di Hélène, Boris non ricevette una spiegazione chiara del perché fosse necessaria la sua visita. C'erano altri invitati, la contessa parlò poco con lui e soltanto nel salutarlo, quando egli le baciò la mano, ella, con una strana assenza del suo consueto sorriso, gli disse inaspettatamente, a bassa voce, «Venite domani a cena, la sera, bisogna che voi veniate, venite». In quel suo soggiorno a Pietroburgo, Boris diventò intimo in casa della contessa Bezukhova. La guerra si era riaccesa e il suo teatro si avvicinava alle frontiere russe. Dappertutto si udivano maledizioni contro Bonaparte, nemico del genere umano. Nelle campagne si raccoglievano militi e reclute, e dal teatro della guerra giungevano notizie differenti, come sempre menzogniere, e perciò variamente interpretate. La vita del vecchio principe Balkonski, del principe Andrei e della principessina Maria era molto cambiata dal 1805. Nel 1806 il vecchio principe era stato nominato fra gli 8 comandanti in capo della milizia, creati allora per tutta la Russia. e la principessina Maria passava la maggior parte della giornata nella camera del bambino, facendo da mamma, come meglio sapeva, al nipotino. Poco dopo il ritorno del principe Andrei, il vecchio principe staccò dai suoi beni la terra di Boguciarovo, grande proprietà situata a 40 miglia dall'Isia Gori, e la diede al figlio. In parte per i tristi ricordi legati all'Isia Gori, in parte perché non sempre il principe Andrei si sentiva la forza di sopportare il carattere del padre, in parte anche perché aveva bisogno di solitudine, il principe Andrei profittò di questo dono di Boguciarovo, mettendosi a fabbricare e passandovi la maggior parte del suo tempo. Il principe Andrei, dopo la campagna di Austerlitz, aveva deciso fermamente di non più servire nell'esercito. E quando ricominciò la guerra e tutti dovettero prendere servizio, egli, per rimanere lontano dal servizio attivo, accettò sotto il comando del padre una carica per il reclutamento delle milizie. Il 26 febbraio 1807 il vecchio principe partì per un'ispezione. Il principe Andrei, come faceva quasi sempre durante le assenze del padre, rimase all'Isia Gori. Il piccolo Nikolushka era ammalato già da 4 giorni. I cocchieri che avevano condotto il vecchio principe tornarono dalla città e portarono delle carte e delle lettere al principe Andrei, il quale era seduto su di una seggiolina da bambino e con mano tremante, aggrottando le sopracciglia, faceva cadere a goccia una medicina da una boccetta in un bicchiere pieno per metà di acqua. «Che c'è?» disse irritato. E avendo imprudentemente mosso la mano, versò dalla boccetta nel bicchiere qualche goccia di troppo. Buttò per terra la medicina contenuta nel bicchiere e chiese di nuovo dell'acqua. La donna gliela diede. Nella stanza c'era un lettino da bambino, 2 banchi, 2 poltrone, una tavola, un tavolinetto da bambino e una seggiolina, quella sulla quale stava seduto il principe Andrei. Alle finestre c'erano le tende tirate e sulla tavola ardeva una sola candela, mascherata da un fascicolo di musica rilegato, perché la luce non cadesse sul lettino. «Caro», disse la principessina Maria, che era accanto al lettino, rivolgendosi al fratello, «è meglio aspettare, poi...» «Ah, fammi il piacere, tu dici sempre sciocchezze, hai sempre voluto aspettare e ora hai ottenuto un bel risultato», disse sottovoce il principe Andrei, irritato e con l'evidente desiderio di pungere la sorella. «Caro, davvero è meglio non svegliarlo, si è addormentato», disse la principessina con voce supplichevole. Il principe Andrei si alzò e in punta di piedi, col bicchiere in mano, si avvicinò al lettino. «Davvero è meglio non svegliarlo?» disse indeciso. «Come vuoi, veramente, io penso, ma come vuoi tu?» disse la principessina Maria, che pareva tutta timida e vergognosa di aver fatto trionfare la sua opinione. Ella indicò al fratello la donna, che lo chiamava a bassa voce. Era la seconda notte che tutte e due non andavano a letto per assistere il bambino che ardeva di febbre. In quei 2 giorni, non avendo fiducia nel medico di casa e aspettando quello che avevano mandato a prendere in città, avevano provato ora questo, ora quel rimedio. Sfiniti dall'insonnia e allarmati, scaricavano il proprio dolore l'uno sull'altro, si rimproveravano a vicenda e litigavano. Il principe Andrei uscì. E dopo aver ascoltato le istruzioni verbali che gli mandava il padre e preso i pieghi che gli erano porti e una lettera del padre, tornò nella camera del bambino. «Ebbene?» domandò il principe Andrei. «Sempre lo stesso, aspetta un poco, per amor di Dio. Karl Ivanich dice sempre che il sonno vale più di tutto», sussurrò con un sorriso la principessina Maria. Il principe Andrei si accostò al bambino e lo tastò. Bruciava. «Ma non seccate col vostro Karl Ivanich!» e prese il bicchiere nel quale aveva versato le gocce e si avvicinò di nuovo. «André, non lo fare», disse la principessina Maria. Ma egli corrugò le sopracciglia con un'espressione di rabbia e insieme di sofferenza e si chinò col bicchiere sul bimbo. «Ebbene, lo voglio», disse. «Via, ti prego, dagliela tu». La principessina Maria si strinse nelle spalle, ma prese docilmente il bicchiere e, chiamata la bambinaia, cominciò a dare la medicina. Il bambino si mise a gridare e a farsi rauco. E il principe Andrei, accigliandosi e prendendosi la testa fra le mani, uscì dalla camera e si sedette sul divano nella stanza accanto. Teneva sempre in mano le lettere. Macchinalmente le aprì e cominciò a leggere. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it